tutti a tutti. Allora, abbiamo seguito questa mattina di questo attacco che c'è stato da parte dell'esercito israeliano, del corteo che si svolge tutti i venerdì contro il muro dell'apartheid, in questo particolar caso al villaggio di Al-Masra. E in seguito a queste cariche delle forze di polizia dell'esercito, insomma, israeliano, ci sono stati 4 fermi, tra cui un ragazzo basco e un ragazzo italiano. Volevamo innanzitutto avere notizie e capire se sono stati rilasciati, se sono stati mandati via, eccetera. Allora, no, la situazione è questa, e cioè il ragazzo basco e il ragazzo italiano sono ancora fermi, sono ancora alla stazione di polizia, sono stati spostati a Hebron, dove in queste ore hanno avuto l'interrogatorio. C'è un avvocato che sta seguendo il caso e che abbiamo sentito poc'anzi. Gli ultimi aggiornamenti sono che verranno trattenuti ancora stasera all'interno della stazione di polizia. Gli israeliani li vorrebbero rimandare, rispedire, deportare in Europa, ma non possono farlo perché a quest'ora oggi sono chiusi gli uffici del Ministero degli Esteri, lo saranno probabilmente anche domani, che è festa qua, quindi per la legge israeliana possono essere trattenuti al massimo per 24 ore, quindi noi siamo in attesa di capire se domani all'una, che scadono le 24 ore di fermo, vengono rilasciati. L'avvocato ci ha anche detto di aspettare, perché ci sono stati anche dei casi in cui in via eccezionale gli uffici hanno aperto di sabato mattina e la corte ha dato la deportazione a altri compagni. In passato è capitato che siano comunque stati mandati via entro le 24 ore, anche se in Israele era festa. Quindi niente, siamo in una fase di attesa, al momento passeranno la notte nella stazione di polizia di Hebron, cioè vicino, nella colonia che sta vicino a Hebron. E per quanto riguarda, insomma, tutti voi, siete andati via adesso dal villaggio di Al-Masra o siete ancora? No, noi siamo ancora fermi qui, perché queste notizie che vi stiamo dando le abbiamo ricevute, fai conto, un quarto d'ora fa, e stiamo per fare comunque rientro al campo, quindi stiamo aspettando che arrivi il service che ci riporta a Betlemme e da lì tornare al campo di Aida. Allora, come proseguirà nei prossimi giorni il campo di solidarietà, che ricordiamo, insomma, sta avvenendo questi giorni proprio nel campo di Aida? Allora, ogni mattina, quindi anche domani mattina, a parte oggi che è venerdì, quindi qua è comunque festa, avremo attività che faremo con i bambini, poi abbiamo in programma altre visite in altri paesi. Abbiamo in programma una visita per dopodomani nella città di Hebron direttamente, e abbiamo in programma per la prossima settimana. Tutte le uscite sono comunque pomeridiane, perché le attività con i bambini vanno dalla mattina alle 8 fino all'ora di pranzo, all'una, e con loro stiamo lavorando. A parte che i bambini sono di età completamente diverse, quindi ci sono i piccolissimi, ci sono i medi, ci sono i grandi, la tematica su cui lavorare è una tematica comune che riguarda il diritto al ritorno, e li facciamo giocare, faremo uno spettacolino di fine summer camp, stiamo lavorando con loro anche con altre attività, il disegno, la fotografia. Insomma, oltre alle attività ludiche, nel tenerli, anche cercare di riflettere con loro su delle cose che siano un po' più legate al campo, alla loro condizione, allo spazio in cui vivono, attraverso i disegni, le foto, i giochi. Questo anche perché insomma ricordiamo che nel campo di Aida nel corso degli ultimi mesi, soprattutto nell'ultimo anno, ci sono state diverse incursioni da parte dell'esercito israeliano proprio contro anche i bambini molto piccoli, che non solo insomma vivono quotidianamente dalla loro nascita uno stato d'occupazione, ma si vedono anche incursioni da parte dell'esercito israeliano. Recentemente insomma è stato anche ammazzato un bambino. E se non ci sono altre novità, noi ci salutiamo per ora, teneteci insomma sempre aggiornate su quello che succede ai fermati e se verranno, speriamo insomma, rilasciati. Sì, vi facciamo sapere comunque domani all'una che cosa succede.